Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io mi sento come un leone, sono pronto a battermi con il mondo intero. Vicino a te mi sento in paradiso e mai più staccherò i miei occhi dal tuo viso. La la la la la la. Ehi, Gio, ma lo senti? Andrà dietro alle donne finché non gli marcirà il pisello. No, sono troppo vecchio per questo genere di cose. Ma sta zitto, l'età non conta. Ehi, che si fa? Non lo so. Organizziamo una festa. Ci divertiremo. Tu porti salsicce e banane e Ben invece la mozzarella. Ehi, un momento, non esageriamo. Cerchiamo di ragionare e di non commettere errori. Vero, non dobbiamo divertirci troppo. Dobbiamo ricordarci che siamo vecchi. Beh, voi fate come vi pare, io voglio divertirmi. Buonanotte, vecchietti ramolliti. Si avvicina il Natale con i cenoni della vigilia e pranzi del 25. Ogni anno pensiamo che non peccheremo a tavola, ma puntualmente spunta un torrone tentatore, una lasagna accattivante, un panettone e i nostri buoni propositi si sgretolano. Ormai però è noto che chi vuole vivere più a lungo possibile, magari fino a 120 anni, deve fare due cose. Stare attento a quello che mangia, senza mai esagerare, e avere delle passioni e dei progetti che tengono allenati il nostro cervello. Parliamo del vivere fino a 120 anni. In Italia nel 2001 c'erano 6.313 persone con più di 100 anni. Nel 2011 siamo arrivati a 15.080 persone dalle 100 candeline in su. Vi ricordo il numero per intervenire su questo tema con domande, notizie, testimonianze: 800 24 00 24. Al telefono abbiamo il professor Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia del Policlinico Gemelli. Accidenti, tutto l'uomo sotto di lei. Senta, professore, un settantenne di oggi è come un cinquantenne di 40 anni fa. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, anche addirittura un 75enne è paragonabile a un 40-50enne, nel senso che le performance sono quelle che faceva quando aveva quell'età, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista dei muscoli, ed è questa la novità. E quindi diciamo che tutti arriveremo più o meno, salvo incidenti di percorso, verso i 90 anni in forma? Beh, dunque, questo che dicevamo indica questa roba brutta che si dice compressione della morbidità, nel senso che ci si ammala di meno, però tenga presente che se oggi la fascia di età che aumenta di più in tutto il quintile, quello degli ultra 85 anni, che triplicheranno entro il 2030, che vuol dire un paese di straordinariamente vecchi, se anche questi ultra 85 anni o 90 anni la grande parte saranno molto meglio del passato, e siccome sono talmente tanti, questo porrà dei problemi perché ci sarà altrettanto un forte numero di persone con disabilità. Ecco, a proposito di queste disabilità, volevo chiedere, a curare, se noi siamo abituati insomma sostanzialmente a curare le singole malattie, non una complessità di malattie che si intrecciano in qualche modo l'una con l'altra, no? Perché a quell'età, lo sta dicendo lei, la sua stessa qualifica lo dimostra. Ecco, l'industria farmaceutica è mirata sulle singole malattie e allora? Ma allora a che punto è? C'è un paradosso, siamo sempre più bravi nel fare gli interventi singoli. Io ho assistito qualche settimana fa a un intervento di asportazione della prostata con il robot. Era una roba, vi assicuro, che se chiunque dotato di intelletto entra in quella sala dice: ma questi sono dei maghi, sono degli artisti straordinari, sono dei performer al di là del bene e del male. Ed è così. Questo da una parte, e pensi alle neurochirurgie, tutti i sofisticati interventi chirurgici. L'altra è che oramai il vero malato è quello ultra 75enne, in genere donna, con 3, 4, 5 malattie insieme. Quando ancora noi insegniamo alla scuola di medicina il diabete, l'ipertensione, il cancro della prostata, separati l'uno dall'altro. E invece essendo tutto interconnesso, vanno tutti insieme. E le medicine è paradossalmente ancora peggio, perché le medicine, per tutta una serie di motivi anche logistici e anche comprensibili, ma metodologicamente vengono studiate in persone sotto i 70 anni con una monopatologia. Quindi, diciamo, non vengono testate le medicine che prendiamo, vengono testate sotto i 70 anni, quindi sopra i 70 anni non si sa niente. In realtà noi assumiamo medicine che non sono poi così efficaci, o comunque non sono testate per il fatto specifico. È non così. Sono testate per... Scusi, professore, ricordo il numero 800-2400. SMS 349-238-6666, scusi. No, non sono testate nella popolazione reale, vengono testate in una popolazione alien. Bene. Che ha la fortuna di essere sostanzialmente fintamente malata, per quello che ci riguarda. Mamma mia. Ma è impressionante queste no, cose. No, mi viene il vecchio detto popolare... di prenderne il meno possibile alla fine, di medicina, non fa male. Ecco, una delle malattie, l'ha detto il professore, anche che colpisce soprattutto in età avanzata è il diabete. La prevenzione e la cura dipendono moltissimo dall'alimentazione. Ce lo spiega bene questa intervista al professor Giuseppe Paulisso, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Professore, c'è chi sostiene che solo un'alimentazione sana potrebbe risolvere un problema molto grave come il diabete, è vero? Basta l'alimentazione? L'alimentazione è fondamentale per la prevenzione del diabete ed è anche molto importante come terapia del diabete. Ovviamente esistono poi forme di diabete per i quali i farmaci sono assolutamente essenziali, ma la prevenzione si basa essenzialmente sulla dieta appropriata e sull'esercizio fisico. Ecco, invece ci sono diete mirate per ogni tipo di diabete? Assolutamente, la dieta va personalizzata sul paziente in modo da dare la migliore dieta possibile per quel paziente, per quel tipo di diabete. Ecco, io le faccio un esempio, io ho il diabete 2, cosa mi consiglia di mangiare? Assolutamente deve essere una dieta ricca di fibre, con pochi grassi, con pochi zuccheri semplici, soprattutto con zuccheri complessi, quindi per esempio amido come... Ma mi dia un consiglio concreto che capisco. Che mangio domani? Da domani in poi cosa mi consiglia di mangiare? Da domani in poi lei può prendere del latte integrale la mattina, scremato la mattina con pane integrale. Allora di pranzo può prendere 70-80 grammi di riso con un po' di pomodoro fresco, può prendere delle alici o dello sgombro per secondo, poi può fare uno spuntino con delle mele che sono molto utili per il paziente diabetico, e la sera un piatto unico con verdura e carne. Ma i farmaci quanto contano e quanto conta la dieta mirata? Perché i farmaci comunque bisogna prenderli anche un po'. Allora, è chiaro che se il diabete è una forma avanzata, i farmaci sono assolutamente importanti, la dieta da solo ormai non può far nulla. Mm. La dieta però insieme all'esercizio fisico sono i farmaci, tra virgolette, più importanti conosciuti al mondo per la prevenzione della malattia. Grazie professore, grazie mille per i suoi consigli. Ecco, ricordo il numero verde 800-2400-24, SMS 349-238-6666. Professore, torniamo a lei e ai farmaci, perché io sono rimasto molto colpito da quello che ha detto, e all'industria. Insomma, non c'è nessuna industria che sta lavorando sulle nuove medicine che servono per rispondere a quella complessità di malanni che si intrecciano negli ultrasettantenni. Ma le dico solo una cosa, lei sa che ci sono le multinazionali del farmaco potentissime, spesso anche molto attaccate. Beh, di queste ce n'è solo una che ha una base in Francia, che ha una divisione sull'invecchiamento. Tutte le altre ancora ragionano con lo stile singola malattia, singola pallottola contro. E c'è un problema, un ritardo culturale, che non è solo dell'industria. Certo, beh, è incredibile questo. Anche la classe medica, insomma, che non la stimola in qualche modo. Ma se lei pensa, non c'è dubbio, anche la classe medica, ma anche se vuole, chi è che vuol far quattrini, che è una roba che invece dovrebbe essere... Interessante, cioè c'è un ritardo proprio culturale, ma il problema degli anziani dipende anche dalla qualità della loro vita, lo sta dicendo, dagli oggetti che usano nel quotidiano, da come sono fatte le case in cui vivono. Ecco, le aziende... Ecco. Allora, investono per rispondere a queste richieste, oppure è una domanda che c'è ma è inevasa dal punto di vista proprio del business potenziale? Ma mi scusi, lei è grande esperto, definito un televisionista, no? Anche sì, se adesso siamo in adesso radio. Sono un radiofonico. Vabbè, sono però convertito. Sia lei che i suoi colleghi, immagino che tutte le sere comunque accendono con il telecomando, se lo guardassero in mano quel telecomando, è folle, è un telecomando per questi ragazzini, infatti, di oggi, che si mettono lì con le ditina piccole, agilissime. Beh, e nati già tecnologici, ma un povero Cristo di 80 anni con l'artrosi, ma solo quello, lasci perdere la parte cognitiva. Cioè, finalmente non guarda la televisione. No, cioè, vuol dire che chi è che si occupa di comunicazione producendo lo strumento per comunicare, certo, ma che comunicazione, sta ancora a che cannina. Ecco, ma noi abbiamo qualcuno al telefono che ha puntato su questo mercato in crescita, come indicano, e come dice lei, come indicano i dati statistici, scusatemi. Nicoletta Medolago, marketing manager di Alcatel One Touch. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, quando avete iniziato a produrre telefonini per le persone in età avanzata? Allora, intanto volevo fare una premessa rapida. Rapidissima, no? Per dare la dimensione di questo mercato, cioè in Italia abbiamo una fascia sopra i 65 anni pari al 14% della popolazione. Sì, l'abbiamo detto. Circa 10 milioni di persone. Per rivolgersi a questa fascia d'età, noi abbiamo iniziato come telefono senior nel 2012, ma molto prima con telefoni con accessi facilitati. Sì. Quindi tasti grandi, basette ricaricabili invece del jack piccolino. E tira il mercato? Tira moltissimo, ma non solo per gli anziani, nel senso che ci sono anziani che prediligono ancora e riescono a seguire su uno smartphone di ultima generazione, ma ci sono persone più giovani che preferiscono avere. Quindi voi avete pensato a un target e scoprite che ce ne sono degli altri, insomma. Che ce ne sono degli altri, ma anche professionisti che nel weekend utilizzano quelli che noi chiamiamo senior phone. Cioè si riposano, certo, fanno un po' più semplice. Senta, ma quanti competitor avete in Italia in questo settore, nel mondo? Perché sembra che noi, nella ricerca che abbiamo fatto per cercare qualcuno, è stato molto complicato, abbiamo trovato solo voi. Ci sono pochissimi competitor, questo perché i grandi player si rivolgono alle grandi masse. Questo era un mercato di nicchia, oggi non lo è più. Noi siamo entrati in questo mercato perché la nostra fabbrica ci ha dato la possibilità di avere questa versatilità, questa propensione al nuovo, all'esigenza dell'utente. Quindi i grandi player non ci sono. Ci siamo noi, un paio di altri players che competono con noi. Vabbè, siamo all'inizio di questa evoluzione, di questo mercato che però è potenzialmente enorme. Certo, va certo, bene. Grazie, grazie dottoressa Medolago. Ecco, noi abbiamo il telefono Massimo da Brescia. Massimo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di tutto faccio complimenti a Radio 24 per tutte le trasmissioni che io quando posso ascolto. Va bene, grazie. Beh, un ottimo palinsesto, a parte sono noi. Allora, la domanda? La domanda è, ma qual è l'interesse? Io credo che comunque sia un discorso di aumentare la qualità della vita. Certo, ma infatti la qualità e la lunghezza, nell'ipotesi di andare a 120 anni, ce l'ha spiegato molto bene il professor Bernabei, è proprio quello, perché lunghezza senza qualità, tra l'altro, è anche complicato. Grazie. Sentiamo Riccardo da Venezia. Ah, buongiorno. Buongiorno a tutti. È un'osservazione al volo così. Io ho 42 anni, faccio il camionista e se vivrò fino a 120 anni, andò in pensione a 90 anni, quindi mi terrorizza questa cosa. Invece i settantenni di adesso vanno in pensione, sono andati in pensione con i 40 anni di lavoro, quindi, ci credo io che stanno bene, sono belli, pimpanti, ma io a 90 anni sarò distrutto ormai. Questa, professor Bernabei, è una delle grazie mille, mi sembra un'ottima osservazione, professore, questa è una categoria da tenere in conto, quelli che pensano che se no vanno in pensione. Poi, è una variante drammatica. Potrebbe non accorgersene, perché se continuiamo così, siccome l'Alzheimer è età correlato, è certo che il novantenni, la metà dei novantenni sono dei deficit cognitivi, la più parte sono sfociati poi in Alzheimer. E quindi uno non se ne rende conto. E quindi uno non se ne renderà conto, quindi il nostro camionista tranquillamente sarà lì. Senti Mario, tu sei mezzo sardo, mezzo americano, sì, ma come vivono gli anziani in America? Come da noi? Allora, in America tutto si misura col dollaro, quindi la vecchiaia, quella che viene chiamata l'advanced age, si misura col tuo fondo pensione sostanzialmente. Tu sai che lì non c'è l'INPS, tanto per cominciare, ma c'è il tuo fondo pensione privato. Lo dici come se fosse un bene, non è detto che sia un bene, è una cosa. No, io sto facendo la cronaca. Ah, vabbè, ok. No, non c'è appunto lo Stato che provvede. E quindi? E quindi dipende da che fondo hai sottoscritto. Insomma, se sei povero vivi male e se sei ricco vivi meglio, come dappertutto. Diciamo che io ricordo una ricerca della Pew Research che diceva che le aspettative di felicità, diciamo, degli anziani in America sono molto alte, ma la realtà è molto diversa. Non sono felicissimi. Pietrangelo, nel mondo arabo come è vissuta la vecchiaia? Che ruolo hanno gli anziani nella società? Nel mondo arabo e nel mondo terrone in genere, quindi un po' più ampio l'orizzonte che anche quello mediterraneo, quello d'oriente. Beh, il vecchio è all'apice della piramide sociale. Ancora. Ed è anche nella... Lo è ancora. A proposito del dollaro, ci sono anche realtà dove la ricchezza è fondamentale come parametro, però c'è una curiosità. Per esempio, negli Emirati non esiste la struttura del cosiddetto ospizio. Non esistono ospizi, perché la società, che è ancora fondata sui principi del nomadismo perfino e comunque di un rapporto forte, di un legame forte, non concepisce l'idea di escludere l'anziano e il vecchio dalla vita sociale. Ecco, allora professore, in Italia, parlando proprio di anche di questo, l'assistenza, cioè le forme di assistenza sul territorio degli anziani praticamente inesistente, solo l'1% degli ultra sessantenni, mi corregga se sbaglio, degli ultra sessantenni disabili rispetto al 18% del nord Europa. Ecco, pesa tutto sul sistema ospedaliero allora? Ma il nostro è un servizio sanitario ospedalocentrico che non ha fatto, è come i competitor di Alcatel, non ha fatto il passo culturale, con meno posti letto di ospedale, molti meno. Provi però a chiudere un ospedale di 120 posti letto in provincia, insurrezione popolare, per fare non tanto più ospizi, adesso si chiamano RSA oggi, residenze sanitarie assistenziali, ma fare assistenza domiciliare. È un paese di proprietari di casa, gli italiani, più dell'80% hanno la casa, diamogli una mano a casa a basso costo con le tecnologie che oggi sono disponibili con la tecnoassistenza. Ecco, ma ci sono più di 1.200.000 badanti in Italia, chi non può permetterselo come si fa? Chi non può permetterselo, se non intraprendiamo questa strada, ragazzi, tra un po' ci sarà la scoperta degli anziani morti da qualche parte per problema di odore. Perché è fatale, non può che essere così. Ecco. E anche la soluzione del 1.200.000 badanti è l'unico posto al mondo dove c'è questa roba, che per certi versi è anche fantasiosa e intelligente, per altri, e non devo dirlo io, apre degli scenari improbabili. Ecco, ancora una domanda, professore. In realtà gli anziani, mi sembra di capire, lo diceva anche Buttafuoco, vivono meglio in luoghi dove esiste ancora una comunità forte, dove ci sono legami familiari stretti, è così? Assolutamente. Perché? Così. Perché vive ancora meglio lì? Ci sono 6 posti al mondo, le cosiddette blue zone, tra cui l'Ogliastra del suo collega Secchi. E come no? Polifenoli, Cannonau. Okay. Lei Cannonau sa bene di cosa parla. Dell'Ogliastra, quello che è in comune con gli altri 5 posti sono prevalentemente isole, Icaria in Grecia, Okinawa, c'è un posto in Colombia, un posto Loma Linda negli Stati Uniti, tutti quanti hanno la dieta, cereali, frutta e verdura, c'hanno tutti quanti dei fortissimi legami sociali, che non è solo familiare, attenzione ovviamente, ma è la vita della comunità, interscambio, protezione e le spalle coperte. Grazie professore, prima di chiudere questa pagina organizzata come sempre da Sara Tardelli e avere un po' di allegria, chiudiamo con questa canzone dei Queen, come ci ha suggerito un nostro follower di Mix 24. Che noi seguiamo, questa volta bruciamo Pietrangelo. There's no chance for us. This world has only one sweet moment. 24. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, attratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. 9.35, 11 secondi, 800-24-0024, il numero di telefono, 349-238-6666, l'SMS. Pietrangelo, questa canzone, perché questa canzone? Allora, questa canzone, intanto buongiorno, questa canzone perché ieri ho assistito a una scena bellissima, ho visto sbucare via da largo di Torre Argentina a Roma, una scena meravigliosa, un'orchestra con la balalaica, fili d'oro. Però quello che voglio chiedere a voi: avete capito chi è che sta cantando? No. Beh, la canzone per è I treni di Tozer, ma non riesco a capire chi è. Prospective Nevsky. Nevsky, sì. Allora, scusa, chi canta? Chi canta, Mario? Chi canta? Non lo so. Se non lo sai tu, non lo posso sapere. Ma non lo so. Allora l'autore della canzone è Franco Battiato. Ma questo lo sapevamo. Però chi sta cantando lo dice Battiato in persona. Ascoltatelo. Una sorpresa. Invito sul palco a cantare con me Marco Travaglio. Oh, una sorpresa, perché canta. Ma è vero. Intonato. È vero. Hai sentito? Ha detto canta ed è più intonato di tanti cantanti. Si innamorò perdutamente. Adesso lo ricordo. Sì. E dei balletti. Vabbè, d'altronde noi stiamo in radio, lui può cantare, no? Certo. Ognuno può fare un'altra cosa rispetto alla sua vita. Giovanni, dopo fantastico. Questo noi possiamo fare no, tutto. No, mi ha molto sorpreso questo scherzo. Travaglio, vabbè, vedi, noi siamo Nevsky. Più spiritosi e più democratici di te. Va sempre bene così. Ancora allora, questa democrazia. Ricordo 800-24-0024, 349-238-6666. Che cosa bolle in pentola? Bolle! Ok, era il collezionista d'ossa. Perché? Perché abbiamo un serial killer in fuga da Genova. La notizia è nota. Io però qua da voi, caro Giovanni e caro Pietrangelo, vorrei un commento. Com'è possibile che un serial killer pericoloso con quel profilo criminale gli venga dato un permesso premio e che addirittura il direttore del carcere dica che non ne sa niente? Ecco, questo secondo me è proprio un caso drammaticamente significativo di quando comanda la burocrazia cieca e stupida, che in tutti i campi è il vero freno allo sviluppo dell'Italia e in questo caso alla sicurezza delle persone e alla giustizia. Perché adesso questo è in giro, speriamo che lo becchino, no Pietrangelo? Speriamo che lo becchino. È come senza dice voce, Giovanni, sono senza voce, però è come dice Giovanni, c'è la tirannia della burocrazia. Ai, cose purtroppo, brutte nel cioè la Santa Russia avanza. La Santa Russia è burocratica. La Santa Russia sono molto più veloci su queste cose. Oltretutto, fermi tutti. Vedi che ha ritrovato la voce. Fermi tutti. C'è Buttafuoco che dirige l'orchestra. Cosa vuoi? No, voglio rendere omaggio, oltre alle note e a quello che significa questa storia, a Valerio che nel sangue, vedi lì in regia, nel sangue c'ha sangue tedesco e quindi sta cantando. Secondo me è di Caserta, ma insomma andiamo avanti. No. Protesta. Allora, no, perché? Cose perché serie perché Deutschland... Stanotte sono capitate cose sì, serie. Sì, cose serie. Allora, l'unione bancaria più o meno europea, più o meno si è fatta, adesso poi ci sarà un consiglio europeo che deve ratificarla. Dice Saccomandi, dice una rivoluzione. Sì. Per i tedeschi. Ah, ecco, lo spieghiamo ai nostri allora, ascoltatori. Allora, i tedeschi già mesi fa, quando cominciò questo processo, avevano tenuto fuori dalla supervigilanza europea le loro banche regionali, che tutti sanno sono il cuore dell'economia tedesca. Sì. Quindi si sono riservati la facoltà di salvarle alla loro maniera se sono in difficoltà, come è successo per esempio con Commerzbank in passato. Ma la cosa interessante è che ancora non è chiaro come verrà valutato il debito pubblico che è nella pancia delle banche. Perché l'idea tedesca è quella di far passare che servono degli accantonamenti di rischio di patrimonio su, anche sul debito, che solitamente viene considerato pari a zero. Fammi capire, le banche popolari, tipo le banche popolari, quelle regionali, quelle sono fuori dal controllo. Quelle che sono quelle che hanno eventualmente i problemi sono fuori dal controllo. Sono fuori dal controllo, certo. I tedeschi sono bravi. E attenzione, le grandi banche italiane che hanno 400 miliardi di titoli in pancia, probabilmente, non è detto, vediamo adesso come, ripeto, vediamo i documenti, ma devono fare ulteriori accantonamenti. È una questione vitale, perché tu capisci bene che fare ulteriori accantonamenti... Due pesi, due misure. L'Europa, attrazione tedesca, continua a segnalare la sua forza dominante. Fortissima. Posso chiedere a voi, che e quindi posso avere illuminazione, giusto per semplificare, per seminare un poco di zizzania. La domanda è questa. Gli italiani, infine, a chi devono obbedienza? Agli americani o ai tedeschi? In questo momento ai tedeschi. Mi sa ai tedeschi. Che sono dal loro punto di vista bravissimi. Non ci sono più dubbi. Bravi degli americani? Nel fare il loro interesse. Nel fare il loro interesse, sì. Sono molto bravi. Allora, lo zio Sam è finito? No, lo zio Sam è finito. Senti qua che cosa succede a Wall Street. Pensa alla grande, sii ottimista. Non dare mai segni di debolezza. Mira sempre dritto alla gola. Compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. La paura è un problema che non ti riguarda, soprattutto se hai la Fed alle spalle, certo, che ti dà una mano, ti salva quando c'è bisogno, quando c'è la grande crisi. Ieri ultimo discorso di Ben Bernanke. Ecco, ma questo volevo chiederti una valutazione. Questa dipartenza di Bernanke, l'arrivo della signora, non cambierà molto nel primo anno. Ho letto molte cose stamattina, in particolare un bellissimo pezzo di analisi del Financial Times che spiegava molto bene come Bernanke abbia messo il pilota automatico ai prossimi 12 mesi a guida Yellen, no? E quindi la Yellen farà quello che Bernanke diciamo ha deciso. Diciamo che ha una linea guida molto importante. Molto naturalmente forte. Hanno anche precisato che se la crisi dovesse riscoppiare o ci fosse un bisogno di intervento, sono pronti a cambiare la politica. E dopodiché, attenzione che c'è Vladimir. И дело не в чиновниках, которым запрещают иметь какие-то счета или ставят под контроль недвижимость. Putin farà una conferenza stampa di fine anno, era lui, in quella dell'anno prima, si è alzato in piedi, si è messo la cravatta e anche la giacca, 1300 giornalisti accreditati, 1300 giornalisti accreditati, durerà ore, l'anno scorso affrontò tutto lo scibile, perfino l'apocalisse dei Maya. Vabbè, e dunque, ha una visione del mondo. Buttafuoco, tra l'altro, credo che debba salaminare su questo. Salamino. Salamino con molta 'nduja, piccante oggi, ma piccante di contentezza, Balzac, di felicitazione, perché devo dare, no, la notizia è già stata data, ma la voglio amplificare, cioè Vittorio Pisani, il capo della squadra mobile di Napoli, è stato assolto. Assolto, è vero. Spieghiamo cos'è successo. È stato coperto di fango, di insinuazioni, accusato dalla locale procura di Napoli dopo aver concesso un'intervista dove lui spiegava da capo della mobile perché secondo lui non c'erano le condizioni per dotare di scorta l'eroe degli eroi, Roberto Saviano. Non può restare al suo posto, fu la campagna di stampa contro Vittorio Pisani, che era considerato ed è attualmente il migliore investigatore d'Italia, quello che i camorristi ne ha sbattuti in galera a Iosa, e è stato assolto, bisogna dirlo, perché in Italia è sempre facile infangare la gente questo e mai riabilitarla. Questo è vero, è fatto e benissimo. Sulle note di Guapparia con Sergio Bruni felicitiamo la bellissima notizia, perché finalmente un vero investigatore, uno che veramente combatte la camorra, è riuscito a dare la risposta definitiva ai suoi accusatori. Bravo. Bene. Bis. Sono tanti anni che faccio questo esame, eppure per me è sempre come la prima volta, non so un tubo. Arrivederci. Sono i ragazzi della terza C. Che copiano, come in rete, perché da uno studio pubblicato da Google, guarda caso, insomma, il 30% di quello che gira in rete in realtà è copiato, perfino male e alterato. È interessante perché se devi fare una ricerca, caro Giovanni, tu lo sai che hai del bisogno. C'è tempo ancora per una bolla? L'ultima bolla? Facciamo l'ultima. Facciamo dai, l'ultima. L'ultima. Allora, come faremo a Sanremo senza amici? Sopravviveremo? Siamo tutti a Sanremo per cantare. Siamo tutti a Sanremo per cantare. Ma dico io. Sopravviveremo, se... una scelta coraggiosa. ma saremmo stati al meglio se ci fossero stati questi, no, questi qui che suonano, che cantano. Se ci fosse stato Arbore, no, invece no, siamo no. Nel pieno della melassa. Grande. Fazziana. No, bravo Fazio, ma che bravo Fazio. Ma che bravo. Hai scelto è bene con coraggio. Burò, il via, Politburo. Viabilità. Mix 24. 9:47, 34 secondi, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms. Siamo tornati in diretta per parlare di media, della televisione, col professor Giorgio Simonelli, storico della televisione dell'Università Cattolica di Milano. Allora professore, ieri sera dov'era il canone? Avrei voluto intanto dire che buongiorno. Il canone era nell'annuncio del cast di Sanremo, ma poi Buttafuoco potrebbe avere delle reazioni eccessive, quindi lasciamo stare, ne parleremo poi più avanti di Sanremo, no? Però sì, insomma, questo... questa era una notizia. Allora invece sì. Mi salvo così, forse dicendo una cosa che farà felice lei. Ieri sera il canone era su Rai 2. Aia, Juventus Avellino. Juventus Avellino. No. Sapete perché? Perché la Coppa Italia è l'ultima manifestazione calcistica importante di cui la RAI ha i diritti per la diretta. E allora, insomma, è una cosa importante questa, che la RAI abbia, a parte la nazionale, che comunque è un una tantum, abbia la possibilità di seguire tutte le partite di una manifestazione come la Coppa Italia. Con una precisazione, vorrei dare questo consiglio alla RAI. Visto che la RAI ci mette i soldi, potrebbe chiedere alla Lega che la Coppa Italia venisse disputata con un'altra formula, molto più affascinante secondo me, quella che è in vigore in Inghilterra, in Francia, anche in Spagna, cioè con l'eliminazione diretta senza teste di serie, partecipano tutte le società professionistiche. Cioè è il direttore della Gazzetta dello Sport, il professor Simonelli. Simonelli più è micidiale, sa tutto, è una cosa... di calcio, di calcio, sembra... di calcio su tutto. Cioè sembra poca televisione e tanto sì, calcio. Sì. Allora sa perché? Perché questo può far sì che succeda quello che è successo ieri, che è stato celebrato dai telecronisti, cioè la festa dei tifosi dell'Avellino, potrebbe accadere per una finale. Ci ho messo tutto, vi racconto questa cosa. Una decina d'anni fa in Francia accadde una cosa straordinaria. Il Calais, che è una squadra diciamo di Serie C, arrivò in finale a Parigi e tutta la città di Calais si trasferì a Parigi creando una grande festa, poi perse la finale, ma era un parlavamo della televisione di qualità, professore, ho capito che di calcio sa tutto. Allora, non volete che io parli di calcio? No, ma basta, ci dica qualcos'altro della televisione di ieri sera. Canone. Allora, dico un'altra cosa, che sempre farà felice lei, perché spesso noi non siamo d'accordo sull'uso delle reti tematiche RAI. Mi sembra che mentre le generaliste arrancano in seconda serata, le tematiche hanno inventato delle ottime seconde serate. Ieri sera, per esempio, su Rai 5 c'era una rievocazione del gruppo 63. Su Rai Movie c'era un talk Rai 5, di cinema, Rai 5 ha importante. Cambiato direttore, ha un direttore intelligente che sta ristrutturando il palinsesto. E quello di prima? E quello di prima non so, non so adesso non lo so. Come hai detto intelligente, ho detto quello di prima. Ah, no, questo è intelligente, quell'altro anche, forse sicuramente, non è un problema. Quanto è malizioso Buttafuoco. Eh no, insomma, ma vuole, dirigere un canale tematico alla Rai? No, no, proprio tematico no. Ah, no, generalista. E certo. Meglio, come diceva, ne approfitto, scusi professore, cosa diceva Ezra Pound? Cosa diceva? Diceva Ezra Pound questo. La libertà di parola, senza la libertà di parlare microfono. Al microfono, è un regalo fatto a Stalin. Ora lo aggiorno, è un regalo fatto a Fabio Fazio. Che non ha i baffi, però, vorrei dire. C'ha quel pizzetto orrendo. Professore, c'è ancora 30 secondi. Allora, l'ultima cosa era su Rai Premium, contemporaneamente c'era un autoritratto dedicato a un'attrice, non famoso, il Christian Filangieri, fatto molto bene. Allora, il canone si trova in seconda serata sulle tematiche della Rai, vedi che so tutto anche di canone, non solo di calcio. Professore, abbiamo finito, sentiamo... Abbiamo finito, ecco, sentiamo l'intervista. Beh, quest'anno abbiamo puntato sull'eccellenza gastronomica, quindi grandi materie prime, abbiamo raccontato l'Italia in lungo e in largo e non solo, quindi abbiamo raccontato anche l'estero, cioè quindi altri paesi. Insomma c'è di tutto. Abbiamo voluto dare un po' di internazionalità al programma. Bene. Tra la prima e la seconda edizione però c'è una grande differenza, il livello è molto cresciuto in questa edizione. Vedremo sempre sfidarsi cuochi amatori o oramai semiprofessionisti? No, cuochi amatori, perché comunque questo è il format, cioè chi è un cuoco professionista non può arrivare a Masterchef. Quest'anno devo dire che ci sarà anche tutta una parte molto più divertente, perché vi assicuro che ci sono dei personaggi che fanno veramente morire da ridere. Perché in Italia c'è gente che si prende anche con un po' più di divertimento. Sentiamo quest'audio. Cos'è questo? Che piatto è? Ho fatto un tortino di patate con polipetti, crumble di mele e pistacchi di Bronte. Sai cosa fa uno che fa un piatto così? Nel mio ristorante New York 4 stelle? Viene licenziata, viene legata e poi con dei cani che ci pisciano addosso? Io muoro questo piatto? Ma tu fai il killer di hobby? Fai il killer di hobby? Vai, stai deludendo! Cecilia, stai deludendo! Sa cos'è, no? L'imitazione di Crozza che fa di Bastiani. Cioè, ecco, anche quest'anno lei è accompagnato da Bastianice e da Cracco? Lo schema è sempre quello del bello, il buono, il cattivo? Bello, buono e cattivo, devo dire, sì. Quest'anno però noi abbiamo alzato un pochino più il tiro, diciamo che il programma è cresciuto, la gente è un po' più sgammata, ne sa un po' di più, ci conosce alla perfezione, quindi anche noi abbiamo dovuto così alzare un po' il nostro livello nei giudizi, quindi siamo stati leggermente forse un pochino più severi. Ah, ma senta, Masterchef, comunque va in onda registrazioni concluse, perché il segreto dei concorrenti naturalmente è fondamentale. Sappiamo pochissimo di questa nuova edizione, una gara a Napoli sul fritto, poco altro. Ci dà qualche indiscrezione, ci dia qualche indiscrezione per i fan? Beh sì, abbiamo fatto poi, come dicevo prima, delle esterne, ci sarà un'esterna molto, molto divertente. No, qualcosa di concreto, ci dica qualcosa in esclusiva. Beh, sui concorrenti devo dire che ci sono dei personaggi straordinari, devo dire che c'è un bel bilanciamento e forse quest'anno le donne hanno cucinato un pochino meglio. Me ne dica due o tre? I concorrenti non possiamo dirli. Dai, mettiamoci ma sembri un ragioniere, dai, forza! Le mani legate, Vabbè, mamma mia, tutti uguali, grazie, auguri, grazie, auguri. Ciao. E allora grazie a Bruno Barbieri e auguri per la terza edizione di Masterchef che va in onda su Sky 1. Il 19 dicembre del 70... moriva in un incidente stradale un grande imprenditore italiano, Aristide Merloni, oggi curato da Marina Merloni, scusatemi la tosse, da Marina Milone. Raccontiamo la storia della sua straordinaria avventura imprenditoriale, che è anche la storia di un territorio, il suo territorio, il territorio delle Marche. A seguire un'intervista a Nicoletta Picchio, giornalista del Sole 24 Ore, per capire qual è oggi la eredità delle sue aziende. Dopo il giornale radio.